24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nania all'appuntamento con 24 ore in Europa. Sono sempre le difficoltà sui mercati ad aprire il nostro GR europeo. Ieri perdite pesantissime praticamente ovunque, con Francoforte che ha perso 5 punti e Milano, piazza migliore, con il FTSE MIB in calo di più di 2 punti percentuali. Unica nota positiva, il raffreddamento del differenziale tra i Bund tedeschi di riferimento e i titoli di Stato italiani e spagnoli. A Londra intanto sono continuati anche ieri disordini e scontri. L'ultimo bilancio parlava di più di 200 arresti. Cercheremo di capire, dopo le polemiche italiane sulla durata delle vacanze dei parlamentari, anche quanto durino le ferie dei colleghi europei. E come dicevamo, partiamo dalla tensione sui mercati. Tensione che non si allenta nonostante le dichiarazioni dei sette grandi che si sono detti disponibili a interventi immediati. E nonostante la Banca Centrale Europea abbia iniziato ad acquistare titoli di Stato italiani e spagnoli. Francoforte, come dicevamo, ha perso 5 punti, Londra 3,4, Parigi meno 4,7, un po' meglio Milano con il FTSE MIB che ha chiuso a meno 2,4%. Gli acquisti di bond governativi italiani e spagnoli da parte della BCE evitano a Milano e a Madrid l'ennesima debacle, ma non il pesante rosso sui mercati finanziari europei, che colpisce soprattutto Francoforte, meno 5% in chiusura, e Parigi, meno 4,7%. È il taglio del rating statunitense da parte di Standard & Poor's, che fiacca Wall Street e le banche americane, e soprattutto la prospettiva di una frenata nella ripresa dell'economia reale statunitense ed europea ad alimentare i timori degli investitori che vendono a mani basse soprattutto i titoli dell'auto e dei gruppi industriali. Piazza Affari, pur cedendo il 2,35%, è la migliore in Europa, ma il settore delle quattro ruote vive anche a Milano una giornata da incubo: meno 10,5% Fiat Industrial, meno 10,3% Pirelli, meno 9,6% Fiat. Tengono i bancari, più 1,8% Banco Popolare, ma anche Telecom Italia, più 0,4%, ancora sostenuta dalla trimestrale diffusa venerdì. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. Unica nota positiva, il raffreddamento del differenziale tra i Bund tedeschi di riferimento e i titoli di Stato italiani e spagnoli. Lo spread si aggira ora intorno ai 300 punti. In Italia intanto il dibattito ruota intorno al cosiddetto commissariamento di fatto delle politiche economiche del nostro paese da parte delle grandi istituzioni internazionali e dei paesi più forti dell'Unione Europea. Il commento di Donato Masciandaro, docente di economia politica alla Bocconi ed editorialista del Sole 24 Ore, intervenuto a 9 in punto. La polemica di questi giorni, di queste ore, sul commissariamento del nostro paese, ben venga. Nel senso che il nostro paese ha dimostrato di non avere capacità di riformarsi da solo. Siccome non possiamo più essere né una colonia degli inglesi né una colonia dei tedeschi, forse cerchiamo di essere almeno un buon paese membro dell'Unione Europea. L'Unione Europea può essere il trampolino per fare certe riforme se c'è una classe politica che non è in grado di farle. E a proposito di Italia, facciamo il punto sul dibattito interno, su mercati, bilancio e politica. Finire le riforme e seguire l'Europa. Anche Umberto Bossi si converte alla linea del rigore e spiega come per tanto tempo il paese abbia speso più di quanto poteva. Un bel giorno però la realtà è venuta a trovarci. Parla il leader del Carroccio al termine di un incontro egemonico con Tremonti e Calderoli. Sul tavolo qualche idea per le imprese e per rilanciare l'economia, dice il senatore, confermando la notizia della lettera ricevuta dall'Italia nel fine settimana da parte della BCE. Intanto PD e IDV parlano di governo commissariato, continuano a chiedere all'esecutivo trasparenza sulle richieste della BCE e dicono no alla distruzione del welfare. Più morbido il terzo polo, che si dice disponibile a votare le misure del governo, e gli occhi sono tutti puntati sulla giornata di giovedì, quando Tremonti riferirà alle commissioni bilancio e affari costituzionali di Camera e Senato. Nella stessa giornata potrebbe anche esserci un consiglio dei ministri straordinario. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nuovi scontri in vista a Londra dopo il rientro anticipato dalle vacanze del ministro dell'interno Theresa May e le polemiche sull'intervento della polizia, anche ieri disordini nel quartiere di Hackney. I teppisti hanno assaltato alcune vetrine e tirato pietre ai numerosi agenti di polizia sul posto. Yeah. L'audio che sentite è quello di un video registrato a Enfield, nel nord della città. Un gruppo di ragazzi sta sfasciando una vetrina. Almeno un centinaio di giovani si sono scontrati con la polizia in assetto antisommossa, danneggiando auto ed edifici e saccheggiando negozi. In molti casi i poliziotti hanno reagito utilizzando i cani. Stessa scena a Brixton, dove centinaia di teppisti hanno lanciato mattoni e spaccato vetrine. Neanche la centralissima Oxford Circus, nota meta turistica, è stata risparmiata dai vandali. Bilancio delle due notti, 35 poliziotti feriti e più di 100 arresti. Intanto cresce la polemica sull'intervento della polizia, con il segretario dell'interno, Theresa May, costretta ad un rientro anticipato dalle vacanze per gestire la situazione. Questo dopo che in molti hanno lamentato l'assenza di un membro del governo in un momento così critico. Giacomo Segantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sugli scontri e sul fallimento o meno del modello multiculturale, l'opinione di Andrea Mammone, docente di storia contemporanea all'Università di Kingston a Londra. Ancora una volta nulla di nuovo sul fronte occidentale, nel senso che ci sono alcuni problemi in alcune zone di determinate città europee, semplicemente perché l'integrazione non ha, tra virgolette, funzionato come doveva. Però anche lì non è una novità, scontri del genere ce ne sono già stati in precedenza in Gran Bretagna, nella zona nord dell'Inghilterra, nella zona di Bradford, vicino Leeds. Bisogna attendere e vedere come si evolvono le cose. Ci sono alcune aree effettivamente difficili, dove il multiculturalismo non ha funzionato probabilmente come doveva funzionare, dove c'è un'esasperazione, ma è troppo presto per dire che questo porterà ad altro. Abbiamo parlato prima del rientro anticipato dalle vacanze del ministro dell'interno inglese Theresa May. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, sono state forti le polemiche anche in Italia sulle vacanze giudicate troppo generose dei nostri parlamentari. Ma quanto durano le vacanze dei loro colleghi negli altri paesi europei? Il servizio. Il rientro forzato dalle vacanze non è un'esclusiva dei politici italiani. Anche in altri paesi d'Europa, infatti, la crisi finanziaria ha costretto i parlamentari a interrompere le loro lunghe ferie. Partiamo dalla Gran Bretagna. Entrambe le camere inglesi, quella dei Lord e quella dei Comuni, sono andate in ferie il 21 luglio. Per loro nessuna seduta sui banchi di Westminster fino al 5 settembre. In Francia vacanze ancora più lunghe. L'Assemblée nationale ha chiuso i battenti il 13 luglio, giorno prima della festa nazionale. Li riaprirà il 6 di settembre. Il presidente Sarkozy, che abbiamo visto passeggiare sulla spiaggia con la moglie Carla dalle curve arrotondate dalla gravidanza, ha però chiesto ai parlamentari di essere reperibili in caso di necessità, visto il periodo. Anche i parlamentari tedeschi sono in vacanza dall'inizio di luglio, in particolare dall'11. I lavori al Bundestag riprenderanno il 5 settembre, ma qui la crisi sembra mordere meno e quindi non dovrebbero esserci emergenze. Per la Spagna, qui c'è l'emergenza e come, niente sessioni plenarie dal 28 luglio al 13 settembre, giorno in cui si rimetteranno al lavoro gli eletti dal popolo iberico. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 55 anni fa l'incidente nella miniera di Marcinelle in Belgio. Alle 8:10 del mattino ieri la campana Maria Mater Orphanorum a Marcinelle ha suonato 262 volte, una per ciascuno dei minatori che 55 anni fa alla stessa ora persero la vita in uno dei più terribili incidenti di miniera nella storia. Tra di loro c'erano anche 136 italiani. Il prezzo della carne aumenta e in Gran Bretagna il furto di pecore è raddoppiato negli ultimi sei mesi, con oltre 32.000 capi sottratti agli allevamenti dall'inizio dell'anno. Come ricorda il quotidiano britannico The Independent, il prezzo dell'agnello macinato è aumentato del 30% dal 2008 a questa parte, quindi circa 9 euro al chilo, mentre una pecora vale circa 82 euro, il doppio rispetto a tre anni fa. E per chiudere rimaniamo sempre in Gran Bretagna, una bella foto insieme e pace fatta tra David Cameron e la barista distratta. Qualche giorno fa non l'aveva riconosciuto e gli aveva chiesto di fare da sé perché era sola al bancone e non ce la faceva a servire ai tavoli. Lui, senza colpo ferire, aveva obbedito, ma poi, come piccola vendetta, non aveva lasciato la mancia. Domenica la riconciliazione tra il premier britannico e Francescariani, la cameriera del bar di Montevarchi, in provincia di Arezzo, dove il politico sta trascorrendo le sue vacanze. Cameron è tornato in quel bar con la figlia più piccola, Nancy. Questa volta Francesca l'ha riconosciuto e l'ha servito, nonostante lui insistesse per servirsi da solo. Una birra per lui, una bibita per la bambina, tanti sorrisi e una bella fotografia a chiudere il piccolo incidente diplomatico Italia-Gran Bretagna. Poi Cameron se n'è andato lasciando, questa volta però, una lauta mancia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per 24 ore in Europa è tutto, grazie in regia a Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.